Cari italiani e care italiane, c'è crisi. Quindi il mio suggerimento per il 2012 è rileggere i classici che avete già in casa o i libri che avete comprato tanto tempo fa. È ora di prenderli in mano. Ariete, so benissimo che voi volete passare per quelli che non seguite le mode. Quindi il mio suggerimento è leggere Stare male di testa di Anepeta, perché sarà il libro e l'autore cult. Toro, Vangelo secondo Maria di Alberti, per nutrire la vostra spiritualità senza perdere mai di vista corpo e desideri, che sono gli ingredienti che fanno felici la vostra anima. Gemelli, Nessun luogo è lontano, Bach. Sì, lo so, è un libro antichissimo, passato di moda, ma per voi che avete bisogno sempre di nutrire la vostra immaginazione stando fermi in poltrona, è il libro adatto. Cancro, Le donne non invecchiano mai, della Caputo. È la continuazione giusta della vostra lettura serale ormai da anni di Via col vento, e non lo dirò a nessuno. Leone, Non ora, non qui, di De Luca. A buon intenditore, e voi lo siete, bastano poche parole, rileggete il titolo. Vergine, Lei dunque capirà di Magris. Cari lettori e lettrici della Vergine, so benissimo che vi do un duro compito, ma vi servirà tutto l'anno per capire il perché di questo suggerimento. Bilancia, La forza delle cose, della Beauvoir, un mattone. Un libro enorme, fatto di diario, di analisi storica, di pensieri e meditazioni sulla vita. È proprio quello di cui avete bisogno per affrontare la crisi, non sociale, ma della vostra mezza età. Scorpione, La donna abitata, di Belli. Credo e spero che questo libro vi aiuti a sentirvi più pieni. Sagittario, Il libro dell'inquietudine di Pessoa, un vero classico, per fare della vostra continua inquietudine esistenziale un punto fermo e radicale anche nel 2012. Capricorno, Leggete i fumetti che non avete letto quando eravate giovani, è l'unico modo che avrete quest'anno per sentirvi meno vecchi. Acquario, Non leggete, spegnete il computer. Lasciate che almeno all'inizio del 2012 il mondo sia per voi l'unica cosa da leggere. Pesci, Qualche manuale, scegliete voi il campo di interesse o di applicazione, da come allevare pulci in casa a come tenere degli scoiattoli sul comodino. Avete sicuramente bisogno per tutto il 2012 di seguire delle istruzioni. Chiaramente sono suggerimenti personalissimi della mia visione e conoscenza dei segni zodiacali, non a livello scientifico o amatoriale, ma proprio a livello personale, quindi mirati, indirizzati, dedicati in buona parte a tutte le persone libro che hanno accompagnato da tutta l'Italia questo viaggio ormai trascorso del 2011. E che dire se non sperare insieme di continuare questo cammino, di ampliare le cellule cosiddette delle persone libro, soprattutto in quelle regioni e in quelle città che ancora ci mancano. Ecco, l'augurio più sentito è proprio questo, di continuare a essere in tanti e in tante e a non smettere mai di leggere.